Italia in controluce. Il 7 dicembre in studio Daniele Biacchesi, la crisi politica sotto l'albero di Natale, così l'abbiamo chiamato, con Silvio Berlusconi che ha annunciato la sua ricandidatura alla guida del PDL nelle aule parlamentari. Questa scelta politica sta diventando molto forte. E ieri l'astensione, in questo momento Alfano ha detto: consideriamo conclusa l'esperienza di Monti, che cosa deve fare il Premier Monti? Trarre delle conseguenze, realizzare le leggi secondo il suo programma oppure rimettere il mandato al capo dello Stato? 349-238-6666. Io saluto Vincenzo Miglietta, ascoltiamo subito Alfano in diretta dalla Camera. Con cecità, e non crediamo che il rispetto delle istituzioni coincida con il dispetto alla realtà delle cose. Noi ieri non abbiamo votato la sfiducia perché votare la sfiducia avrebbe forse causato per il nostro Paese l'abisso dell'esercizio provvisorio. Noi ieri non abbiamo votato la sfiducia perché vogliamo concludere ordinatamente questa legislatura. Noi non abbiamo votato la sfiducia perché consideriamo conclusa l'esperienza del governo Monti, ma non vogliamo mandare le istituzioni e il Paese a scatafascio. Questo è il nostro senso di responsabilità. Come è stato responsabile da parte nostra votare provvedimenti che in buona misura non abbiamo condiviso, perché siamo stati persone di parola e abbiamo votato sì anche quando non abbiamo pienamente condiviso, perché era stato il nostro impegno quello di sostenere questo governo. E a questo gesto e a questa scelta noi abbiamo pagato un conto salato anche con il nostro elettorato, un elettorato al quale noi ci rivolgeremo dicendo esattamente ciò che pensiamo. Pensiamo che di credere nell'Europa, e pensiamo che però credere nell'Europa non significhi dire sempre di sì alla Germania e alla Francia. Noi crediamo che le tasse vadano pagate, ed è il motivo per cui abbiamo combattuto contro l'evasione raddoppiando dal 2008 al 2011 l'incasso della lotta all'evasione. Ecco, poco fa Alfano ha detto che il PDL vuole concludere in modo tranquillo la legislatura, ma considera sostanzialmente il governo Monti finito. Siete all'ascolto di Radio 24 in diretta su Italia in controluce. Stiamo trasmettendo praticamente in diretta la crisi di governo, la fine, diciamo, gli ultimi giorni del governo Monti. Che cosa deve fare secondo voi a questo punto il Premier Monti? Andare avanti con le leggi secondo il programma, oppure rimettere già oggi il mandato al capo dello Stato? Oppure suggerisco anche ciò che potrebbe accadere, cioè se il capo dello Stato in qualche modo chiede ai partiti che lo hanno sostenuto una sorta di crisi pilotata. Si va dunque verso marzo alle elezioni, anche se il Popolo e Libertà vorrebbe unificare le elezioni regionali con quelle politiche a febbraio. Allora, Vincenzo Miglietta, raccontaci un po' queste ore molto convulse della politica italiana. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Daniele, credo che l'ultima ipotesi che hai fatto sia quella più verosimile, ovvero Alfano indica, lo ricordiamo dopo aver incontrato questa mattina il capo dello Stato, un percorso di crisi pilotata, ovvero il PDL probabilmente voterà la legge di stabilità e gli altri provvedimenti importanti che sono in scadenza tra Camera e Senato, ma da lì in poi staccherà la spina al governo Monti. Le scuse ufficiali di questo staccare la spina Alfano le ha indicate in provvedimenti economici che non sono più nelle corde dell'elettore di centrodestra, e poi soprattutto il provvedimento sulle intercettazioni e sulla responsabilità civile dei magistrati. In realtà lo sappiamo tutti, il ritorno in campo di Berlusconi scompagina lo stesso Popolo della Libertà. In questo momento qui alla Camera il clima è veramente quello di fine legislatura, lo abbiamo anche percepito dagli altri interventi precedenti, quelli di Bersani, di Casini, della stessa Lega, che ha sottolineato un rinnovato connubio con il Popolo della Libertà. Insomma, come dicevi tu Daniele, veramente siamo agli sgoccioli della legislatura. Siamo verso la fine. Noi abbiamo chiesto che cosa cosa deve fare Monti, se realizzare le leggi secondo il suo programma oppure già oggi rimettere il mandato, oppure chiedere cosa farà appunto nelle prossime ore al capo dello Stato, quale può essere il percorso. Sono tantissimi gli sms che sono arrivati al 349 238 6666. Intanto la Camera si va avanti ad oltranza nella discussione politica che sta diventando sempre più forte. Poco fa avete sentito Alfano, ha detto di aver considerato sostanzialmente finita l'esperienza del governo Monti. Un ascoltatore dice: Monti avanti tutte, perché se torna Berlusconi siamo finiti. Un altro, Antonio da Taranto, dice che Berlusconi è impazzito. Altri molto duri rispetto ai politici, più in generale, questi politici fanno ridere. Monti deve andare avanti e cambiare la legge elettorale. Chi ce l'ha invece contro Berlusconi e Bersani, che dice basta con questi dinosauri di destra e di sinistra. Alfonso da Udine ci scrive che il Popolo e Libertà senza Silvio non è praticamente nulla. Un altro ascoltatore dice che questo PDL ha votato tutte le leggi di questo governo e ormai, secondo questo ascoltatore, non sono più credibili. Un altro ascoltatore dice che Monti deve andarsene, punto e fine. Praticamente ce l'hanno soprattutto con alcune leggi sulle pensioni, c'è chi ricorda anche la legge sulla riforma del mercato del lavoro. Monti vada alla conta tutti i PDL, Marvi dice, così scrive da Genova. Poco fa, prima di Alfano, ha parlato il segretario Pierluigi Bersani. Intanto dico a Vincenzo Miglietta e dico anche ai nostri ascoltatori che andrò avanti dopo lo spot, dopo la pubblicità, dopo il break, dopo la viabilità, quindi non ci sarà America 24, perché questi sono momenti molto forti per la storia politica di questo paese, ed è nato sostanzialmente la fine del governo Monti e l'inizio di una crisi. Non sappiamo se è una crisi al buio o una crisi pilotata. Allora sentiamo innanzitutto Pierluigi Bersani. Ma pensate o no di avere qualche responsabilità se l'Italia è là dove non doveva essere, sul punto più esposto della crisi? Non c'era ragione che fossimo lì. Non c'era ragione che fossimo in squilibrio di finanza pubblica, più spesa corrente, più tassazione, più debito, ancor prima della crisi. Colleghi leghisti, venite a dire di recessione? Ma lo sapete che è dal 2007 che noi perdiamo 20 punti di produzione industriale? Lo sapete che sono 5 anni buoni che il reddito delle famiglie va giù e quindi risparmi e quindi consumi? Allora, attenzione bene, ci si raccontava in quegli anni che la crisi era psicologica, che stavamo meglio degli altri. Voi ci avete raccontato questo. Siete stati degli irresponsabili siete stati. Ecco, questo è il discorso di Pierluigi Bersani. Un altro ascoltatore, Alfredo, dice: una sola parola, sgomento, confido nel giudizio degli italiani su questa destra, la peggiore d'Europa. In Italia siamo un po' troppo furbi, dice Adriano, governanti in primis, tutti i nostri problemi sono derivati da questa nostra virtù. Speriamo che arrivi la troica, dice Livio, che ci spazzi via tutti. Chi ce l'ha con Monti? Chi invece dice Monti deve andare avanti fino in fondo? Allora, Vincenzo Miglietta, intanto mi sembra di capire il dibattito va avanti, ma il discorso più atteso, quello di Alfano, è terminato. Sì, è così. Adesso si sta procedendo al voto sul provvedimento sui costi della politica. Non dovrebbero esserci sorprese, perché comunque il PDL ha detto che andrà avanti onorando gli impegni assunti, ma il messaggio politico mi sembra chiaro. Veramente il PDL sta annunciando il suo passo indietro. da sottolineare questo rinnovato unità con la Lega, sembra essere tornati veramente ad un anno fa quando PDL e Lega comandavano i giochi qui in Parlamento. Bisognerà attendere poi nel pomeriggio quando Bersani e Casini saliranno al Quirinale per capire quali saranno le prossime mosse, soprattutto del Quirinale, perché mi sembra chiaro che a questo punto spetta a Napolitano intercedere su Monti per vedere quale può essere la fine indolore di questo percorso parlamentare. Ecco, resta lì un altro SMS: Italia commissariata dall'Europa oppure sarà la rovina. L'unica speranza era Renzi, dice un altro ascoltatore, ma i comunisti, ecco, i comunisti l'hanno soffocato nella culla. Alfano non parla di sprechi, un altro ascoltatore invece si preoccupa dei magistrati. 349-238-6666, ora la viabilità, poi riprendiamo facendovi ascoltare dei pezzi di questo dibattito, diciamo, infuocato in questo ore molto complicate della storia del paese, dove si va verso una crisi ormai conclamata di governo e verso le elezioni, che non sappiamo e non si riesce a capire se saranno quelle che vuole Alfano e Berlusconi, cioè l'Election Day a febbraio insieme alle regionali, oppure le politiche staccate dalle regionali a marzo. Italia in controluce. Siamo di nuovo in diretta quando sono le 13:46 minuti. Intanto c'è stato, ecco, il via libera della Camera sui costi della politica, è giusto, Vincenzo? Sì, è così. Ho accanto a me l'onorevole Gentiloni. Onorevole, che conclusioni trae rispetto all'intervento di Alfano? Il governo Monti è veramente alle sue battute finali? No, mi pare la conferma di una linea abbastanza irresponsabile e comunque insostenibile, cioè che l'Italia è nelle condizioni in cui è per colpa di Monti. La cosa insostenibile è che a dirlo sia esattamente chi, cioè Silvio Berlusconi, che ci ha portato in questa situazione. Poi le previsioni sui prossimi giorni, certamente il PDL si presenterà come il partito anti-Monti, dovrà farsi perdonare quello che ha fatto nei 4 anni precedenti e io mi auguro che grazie alla guida del Presidente della Repubblica si arrivi comunque a una conclusione ordinata della legislatura. Grazie. Ecco, questo è Gentiloni del Partito Democratico, naturalmente resta lì Vincenzo Miglietta collegato con noi dalla Camera. Dicevo, sono i momenti della crisi di governo. Abbiamo sentito la voce di Alfano, abbiamo sentito il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani che ha accusato il PDL di essere degli irresponsabili, e ora sentiamo Pier Ferdinando Casini dell'UDC. Ma prima vi ricordo la domanda: cosa deve fare secondo voi Mario Monti? Cosa deve fare? Realizzare le leggi che sono quelle del suo programma, oppure rimettere già oggi il mandato, oppure attendere il capo dello Stato con una sorta di crisi politica non al buio bensì pilotata, come penso stia avvenendo in queste ore? I vostri messaggi al 349-238-6666. Sentiamo ancora il dibattito di questa mattina. Pier Ferdinando Casini dell'UDC. Se tutto questo teatrino è servito comunque a porre le premesse per una ricandidatura di Berlusconi e una deriva del PDL verso lidi populisti antieuropei, almeno sarà fatto chiarezza. Certamente noi ci confronteremo in campagna elettorale e come sempre sarà il popolo che deciderà chi affidare il proprio futuro. Un'ultima considerazione la voglio fare, riferita una al governo e una alle forze politiche. Noi abbiamo detto all'atto di insediamento di questo governo: noi privilegeremo il dialogo con le forze che sostengono questo governo. Lo abbiamo detto un anno fa, lo abbiamo ripetuto 6 mesi fa, lo confermiamo oggi. Secondo noi il banco di prova di ogni ragionamento serio per il futuro della politica italiana parte dal sostegno a questo governo. il sostegno da parte dell'UDC, il sostegno da parte del Popolo delle Libertà, del Partito Democratico, mentre poco fa avete sentito Alfano, ha detto ieri non abbiamo votato la sfiducia al governo perché abbiamo causato l'abisso dell'esercizio provvisorio. Vogliamo concludere ordinatamente questa legislatura senza strappi, senza mandare le istituzioni e il Paese allo scatafascio. Questo cosa vuol dire, Miglietta? Non so se hai qualche altro ospite. No, in questo momento no, perché gli onorevoli hanno votato il provvedimento sui costi della politica e, come era prevedibile, stanno lasciando il palazzo. Ecco, questo che cosa vuol dire in termini... Io prima parlavo di una sorta di crisi politica pilotata da parte del Quirinale. È alla fine il Quirinale che sta, giustamente, del resto lo dice la Costituzione, sta pilotando questa crisi che ormai è fin troppo evidente. Non ci sono i numeri, non ci sarebbero più i numeri in termini proprio politici per una maggioranza, e quindi si deve decidere cosa fare, come procedere. Daniele, l'interpretazione maggiore che viene data qui dai parlamentari, soprattutto del PDL, che però non vogliono parlare a microfono, è la seguente: la crisi pilotata potrebbe prevedere questi step, ovvero da una parte il voto del Parlamento sui provvedimenti economici importanti, dall'altra Napolitano darebbe il suo EP ad un election day, cosa che vuole il Popolo della Libertà, per i primi di marzo. Questo potrebbe essere il compromesso, ovvero non far cadere subito Monti, arrivare quantomeno a Natale con i provvedimenti politici più importanti ed economici approvati, poi lo scioglimento delle Camere e dall'altra parte però l'election day ai primi di marzo. Ecco, leggiamo ancora gli sms al 349-238-6666, sono veramente tantissimi. Donatella da Genova dice: imploro gli italiani di non fare i soliti pecoroni. Quanto c'è costata la tregua imposta da Berlusconi a Monti? Andare avanti con Monti, avanti con i decreti sull'incandidabilità per primo e poi vediamo, dice Vladimiro. Monti deve avere il coraggio di fare i tagli sui politici e sulla pubblica amministrazione. Se non lo fa il governo tecnico, chi lo farà mai? Dice Fabio da Cuneo. Invece un altro nostro ascoltatore, Corrado da Como, dice che praticamente non vota più. Dice: io non voterò più dopo quello che sto vedendo e sto ascoltando. Ma chi merita Monti? Dice un certo Mauro. Che ha fatto per la crescita? E Bersani dove ha vissuto fino ad ora? A un altro come Claudio gli viene da piangere se pensa invece al ritorno di Berlusconi. Allora sentiamo invece la posizione di un altro partito importante che, devo dire, ha sempre fatto l'opposizione, un'opposizione molto dura, a Mario Monti. Sentiamo Dozzo della Lega nel suo intervento questa mattina alla Camera. Presidente Napolitano, la cosa è molto semplice. Per evitare una fine convulsa della legislatura, può benissimo, dopo il voto sulla legge di stabilità, che si può tenere entro 10 giorni, sciogliere le Camere e indire subito le elezioni, sia quelle politiche che quelle regionali che quelle amministrative, da tenersi in un unico giorno, il cosiddetto Election Day. È in vigore infatti una legge che obbliga l'accorpamento alla stessa data delle varie elezioni. Mi chiedo cosa sarebbe successo se al posto del cosiddetto governo tecnico ci fosse stato un governo politico. Il presidente Napolitano avrebbe avuto lo stesso atteggiamento? Io ne dubito. Allora siamo in chiusura di questa diretta, di questo speciale, diciamo, di Italia in controluce dedicato alla crisi di governo, collegandomi ancora con Vincenzo Miglietta. Ecco, qual è adesso abbiamo raccontato un po' quali possono essere gli step più importanti, ma ci sono degli appuntamenti nuovi nel pomeriggio da parte del Popolo e Libertà, oppure la posizione di Alfano è quella, non ci sono stati altri altri come dire, deputati o senatori o comunque esponenti del PDL che hanno espresso dei dubbi sulla posizione di Alfano e di Berlusconi? Ecco Daniele, è proprio questo il punto, hai ragione. Ho rincorso il vicepresidente Lupi e mi ha detto sto andando a parlare con Berlusconi, abbiamo una riunione. Evidentemente la posizione anche di Alfano forse non rispecchia tutto il Popolo della Libertà, sappiamo che è nutrito il fronte delle colombe che non vorrebbe questa accelerazione della crisi. Quindi nel pomeriggio riunione del PDL con Berlusconi da una parte, Bersani e Casini dall'altra, che saliranno al Quirinale. Grazie mille, allora io concludo, vi ricordo Italia Contro Luce ritorna da lunedì, prima con Scuola in Contro Luce con Piera Ceci, poi da martedì con l'approfondimento consueto e quotidiano della redazione sui fatti di stretta qualità.